con tutti gli uffici della ripartizione cultura italiana, come di consueto organizza degli incontri due volte a settimana con le autrici, gli autori, naturalmente così per promuovere la lettura, per promuovere la ricerca, per avere un contatto diretto anche con il pubblico. Sono occasioni speciali a cui teniamo particolarmente, perché coltiviamo in questa maniera l'amore, la passione, l'interesse per la lettura, per la conoscenza. Il libro, in particolare i racconti, i romanzi, sono degli straordinari veicoli di storie, di narrazioni, ma anche di emozioni che forse oggi mancano un pochino e che soprattutto i media a cui ci hanno disabituato un po' i media. Sono sempre impattanti, ma in realtà non ci lasciano il tempo di riflettere, di tornare su una cosa, di emozionarci, di appassionarci a quella che è la vita quotidiana, anche con le sue brutture, diciamo, non deve essere solo tutto bello, ma permetterci di pensare, di riflettere, questo sì, lo dovremo reclamare come un nostro anche diritto. E in questo senso Ada Zapperi Zucker è straordinaria, perché, come ho detto anche oggi, per me è sempre capace di rinnovarsi non solo nei contenuti, nelle storie, ma nel modo di farlo e nell'instillare sempre questa curiosità e questa capacità di appassionare il lettore con le nuove avventure, con dei racconti, delle descrizioni dell'animo umano in tutta la sua interezza, ecco, senza nascondere anche gli aspetti più contraddittori, forse anche più oscuri, che però hanno una loro caratteristica, una loro veridicità che ci toccano tutti quanti, ecco, ci coinvolgono sempre. La ringrazio perché ogni volta che ha un nuovo libro, un nuovo racconto, ce lo propone, e come biblioteca siamo particolarmente contenti di averla come ospite. È accompagnata da Fabio Zamboni, un giornalista che si occupa di cultura, che conosce anche l'attività di Ada Zapperi Zucker e che quindi sa anche descriverla e accompagnarla in queste serate. E poi c'è sempre il tocco di due professionisti, due lettori, abbiamo con noi Lorenzo Berlini questa sera e Maria Pia Zanetti, che ringrazio tantissimo di essere qui con noi. Non dico altro, vi invito a tornare a visitare la biblioteca, siamo appunto all'angolo con via Marconi e presenti in questo centro da alcuni mesi, siamo lieti di ogni visita. Vi ringrazio ancora. Grazie. Chi avesse interesse, poi c'è il pacco con i libri di Ada Zapperi Zucker e possono essere anche acquistati. Grazie. Thank you. vediamo se funziona. Sì, si sente? Eccolo qua. Perfetto. Si sente abbastanza? Sì, anche il papà. Allora, buonasera anche da parte nostra, benvenuti a questa serata, anche da parte di Ada Zappelli Zucca, che è abbonata ormai da qualche anno, è ospite fedele e amata di queste serate alla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che ringraziamo ovviamente per ospitarci. Il brano che avete ascoltato adesso era La danza degli spiriti beati da Orfeo e Eurydice di Gluck, e non era soltanto per creare empatia con il pubblico, perché la musica può aiutare a rompere il ghiaccio, ma i motivi per cui partiamo con la musica è che la musica è parte integrante della vita di Ada Zappelli Zucca, che ha avuto una lunga e fortunata carriera di cantante lirica e che tuttora è una apprezzatissima docente di canto lirico, quindi c'è un legame forte. In più, in particolare, questo brano che avete ascoltato è parte stessa, è citato nel romanzo, nel primo racconto dei due che sono racchiusi in questo libro che presentiamo questa sera, che si intitola I padri assenti, sottotitolo Due racconti, perché poi ce n'è uno più breve oltre a quello che dà il titolo al libro. Quindi la musica, abbiamo aperto con la musica per questi due ottimi motivi. Ringraziando voi per la presenza, vorrei sottolineare che siete pochi ma buoni, nel senso che avete resistito a una concorrenza, e abbiamo subito una concorrenza strepitosa questa sera, nel senso che alla stessa ora parlano di psicanalisi a nemmeno un chilometro in linea d'aria da qui, con il protagonista Crepé, quindi, e il libro si occupa di psicanalisi, quindi dovrei fare un sondaggio per capire chi è più appassionato di letteratura e chi invece di psicanalisi, per vedere se sono tutti davvero dall'altra parte. E in più aggiungiamo che c'è, insomma, quelli che mancano, siccome il pubblico è soprattutto femminile, quello di Ada Zappelli probabilmente starà toilettando per la prima dello Stabile oppure per la prima del film di Meisner, quindi è una concorrenza spietata. Comunque grazie di essere qui, e diffonderete poi voi, se il libro vi piacerà, la conoscenza della nostra autrice. Il libro, I padri assenti, potrebbe sembrare un titolo molto attuale, perché il dibattito se i padri sono assenti o presenti chiaramente riguarda anche l'oggi, riguarda una vita frenetica che facciamo, anche se i padri di oggi, da un certo punto di vista dell'impegno con i figli e magari di lavare i piatti, sono un po' meglio di quelli di una volta, o no? Sì. Ma in realtà il titolo non è, si riferisce a un fatto, a una generazione che è uscita dalla seconda guerra mondiale. La storia, la grande storia per Ada Zappelli è sempre stata un motore di ricerca dell'umanità fondamentale, ha anche analizzato fatti storici che poi sono stati il teatro in cui ha ambientato i suoi romanzi, i suoi racconti. E quindi i padri assenti sono quelli di una generazione, soprattutto di quella uscita malconcia dalla seconda guerra mondiale in Germania, dove lei vive da 40 anni, giusto? Quindi questo è il titolo del primo racconto. Il secondo invece è Il vecchio padrone, e ne parleremo chiaramente in coda alla serata. I padri assenti racconta, è un diario romanzato, ma molto autobiografico, di una terapia di gruppo che Ada Zappelli Zucca, alla quale Ada Zappelli ha partecipato una trentina di anni fa, 37 anni, in un paesino della Germania, una settimana, diciamo, divisa in due sedute, in due serie di sedute, che per lei sono state decisive. La prima cosa che le chiederei però è di raccontare come nasce questo libro, perché la terapia risale a questa esperienza forte, risale a 30 anni fa, il libro esce adesso. Quindi la genesi del libro probabilmente è comune anche ad altri libri che abbiamo già presentato anche qui, e cioè Ada Zappelli scrive da sempre, ha riempito i cassetti delle sue scrivanie di manoscritti e ogni tanto si imbatte in qualche racconto degno di essere pubblicato, e lei ci mette mano e succede questo piccolo miracolo che diventa un libro edito dall'editore che non abbiamo ancora citato, Verlag Omeged, che va sempre citato. per la massima efficienza. Tra l'altro vorrei anche citare il fatto che è qui reduce dalla fiera del libro di Monaco, dove ha presentato la versione tedesca del romanzo precedente, prossima settimana. La casa del nonno. E lascio volentieri il microfono per dirci come è nato questo libro. Dunque, le cose sono due, come è nato il testo e come è nato il libro, e sono due cose molto ben separate. Facciamo come è nato il libro. Il libro è nato in un giorno, uno dei giorni strani in cui ho voglia di buttare via tutto e fare piazza pulita nella mia casa, che è piena traboccante di roba che non se ne può più. E ho visto in uno scaffale molto in alto dei quaderni, grossi quaderni. Ho pensato, cominciamo da lì, prendo una scala, salgo, prendo questi quaderni. Prima di buttarli via ho dato un'occhiata e ho visto, sono rimasta sbalordita, e c'era una data, 1984, e cominciava. Allora ho cominciato a leggere e ho visto, e qui è nato, cioè adesso è nato poi il libro. Però il libro di per sé, cioè la scrittura, è nata esattamente nell'84. Devo proseguire? Beh, qualche altro dettaglio su questa genesi. Dunque, il fatto è questo, che io nell'84, in seguito a varie vicissitudini della mia vita, che ognuno di noi ha, decisi di fare una terapia di gruppo. La terapia di gruppo è molto diversa dalla quello che si dice in tedesco Einzeltherapie, terapia psicoanalitica da sola. In gruppo significa che si sta in una stanza, infatti tutto il romanzo, il libro, si svolge in una stanza dove si riuniscono 12 persone e uno psicologo. Quindi è tutto un altro del sistema, cioè non è che si sta tu per tu con uno psicologo, ma si sta tu per tu con ben 12 persone, tutte diverse. Uomini, sei uomini, sei donne. Ed è un'esperienza, devo dire, allora io mi permetto di dire che consiglierei a tutti, perché a un certo punto per me è stato molto importante, perché mi sono vista come mi vedevano gli altri, cose che in realtà noi non facciamo mai, anche se ci guardiamo allo specchio, anche se crediamo di sapere chi siamo e come ci vedono gli altri, in realtà per la prima volta sono stata confrontata con me stessa. Ed è stata una lezione importantissima per la mia vita, perché ho cambiato tantissime cose, ma sono cambiate radicalmente tante cose. Sono molto grata di aver fatto questa esperienza, tant'è vero che prima di finire il libro sono andata a trovare lo psicoanalista, che è un 90 d'anni così, una persona deliziosa, devo dire, e gli ho chiesto il permesso. Lui era molto stupito, io ho detto, guardi che io allora scrissi un diario, se mi permette di pubblicarlo, non metterò i nomi, cambierò tutti i nomi, cambierò anche il suo nome. No, ha detto, metta il mio nome. E infatti lui mi ha dato il permesso, perché un uomo molto noto a Monaco, uno psicanalista di nome, fra l'altro credo che non eserciti più, e così è nato questo libro. Ecco, solo che un conto è raccontarsi in un contesto come quello dove tutti sono disposti a farlo, un conto è raccontarsi poi e raccontare questa esperienza in un libro. Mi raccontava Ada Zapperi che era molto perplessa sul fatto di pubblicare, ma interesserà anche agli altri quello che è successo a me, la mia esperienza, eccetera. A convincerla che valeva la pena di pubblicare un'esperienza così personale è stata, mi diceva, la lettura di un libro di Irving Yalom. Ci racconta un attimino come, sì, che cos'è che l'ha sbloccata grazie alla lettura, sì, di questo, sì, libro. Grazie. Effettivamente, proprio in quel periodo, perché il destino è una cosa favolosa, quando io volevo buttare quei quaderni stavo leggendo un libro di questo Yalom, e cioè La terapia di Schopenhauer, che era appunto più o meno molto, con molti cambiamenti, a parte 900 pagine, tanto per parlarci chiaro, queste sono quasi 100 pagine, io non so fare cose così lunghe, insomma 900 pagine di effettivamente più o meno di un resoconto di una terapia di gruppo. Allora ho pensato, beh, se lo fa lui perché non lo posso fare anche io? E così mi sono buttata. Io direi di dare subito un'idea, un assaggio di questo libro. E intanto ringrazio già per la presenza Lorenzo Merlini e Maria Pia Zanetti, che sono i nostri lettori di questa sera. E la prima pagina che ci leggono riguarda proprio l'ingresso in sala, e quindi sulla scena di questa terapia di gruppo, di Costanza, che è un po' Ada, giusto? Soltanto un po'. Soltanto un po'. Devi schiacciare. È già acceso, è acceso la luce. Una donna di età indefinita, tra i 20 e i 30 anni, piuttosto sbiadita, senza aprire bocca, anzi senza un solo movimento delle labbra, con voce apatica e occhi spenti, di punto in bianco prese a raccontare un sogno che aveva fatto la notte precedente. Era al cinema insieme al gruppo per vedere un film di Chaplin. Dal nulla erano spuntati due cani, un bassotto e un pastore tedesco. Il pastore tedesco si era avvicinato a lei e lei gli aveva dato un dito che il cane aveva preso con gli artigli di una zampa, avvolgendolo senza farle male. Fine del racconto. Silenzio totale. Dopo un po', il dottor Marx tentò di analizzare il sogno, chiedendole come mai avesse avuto il coraggio di porgere il dito a un cane sconosciuto, come mai il cane non l'avesse morso, e così via. Una storia lenta, noiosa, incomprensibile, che non interessava a nessuno. A un certo punto una ragazza domandò, interrompendo il discorso della donna sonnolenta: senta, verrà? Con la stessa indifferenza di una che, camminando lungo un fiume, improvvisamente si china, raccoglie un sasso e lo butta in acqua. La domanda restò per qualche minuto nell'aria, poi il dottor Marx, pacato come sempre, disse di averla nominata poco prima. Faceva appunto parte del gruppo che sarebbe arrivato con mezz'ora di ritardo. Quasi senza ascoltarlo, con lo stesso tono di prima, la ragazza aggiunse: la volta scorsa non si è fatta vedere, qualcuno ha detto che era malata. Chissà poi se era vero. La ragazza, forse 25enne, piuttosto grassottella, il viso rotondo, piacente, capellini ricorti, aveva un che di simpatico, di gioviale quasi, nonostante dimostrasse con molta chiarezza una certa indifferenza per quanto stava accadendo nella stanza. D'un tratto un uomo, capelli grigi, barbette, baffi, in ogni caso il più anziano di tutti, e cioè intorno ai 60, frenandosi a stento, sbottò: io sono contrario che ci siano dei nuovi, mi disturba molto. A lui si unì subito una donna sui 30, piuttosto insignificante, una di quelle donne che normalmente nessuno noterebbe in mezzo a una folla. E anch'io sono d'accordo che ci siano degli estranei, o restano loro, vado via io. Anche l'uomo che era entrato insieme a Costanza esplose: mi sembra di essere in pieno thriller. Io sono nuovo, questo lo so. Chi è l'altro nuovo? E lo disse col tono di chi cerca il secondo assassino. Seguì un lungo silenzio, carico di tensione. Costanza, al contrario, scoppiò a ridere, una risata tra il divertito e il sarcastico, come è sua abitudine. Infine, girandosi verso di lui: io, disse continuando a ridere. Tutti la fissarono esterrefatti. Grazie. Ti teniamo qui, Lorenzo. Sì. In un'intervista ci avevi raccontato che quell'esperienza ti ha cambiata definitivamente e decisamente. Immaginare che una settimana di terapia possa cambiare la vita di una persona è un'affermazione forte, cioè ci racconti come? Io credo di averlo detto già precedentemente. Una delle cose fondamentali di noi è quello che ci vediamo sempre con gli occhi dei nostri genitori, dei nostri fratelli, dei nostri parenti, delle persone che ci sono vicine, con le quali siamo cresciute, con le quali viviamo. Ed è una visione, devo dire, più una proiezione che una visione di quello che effettivamente siamo. Quindi una terapia di gruppo fatta con persone completamente strane, che non hanno assolutamente nessun preconcetto, è molto più vicina alla realtà che non quello che abbiamo ricevuto fin dall'infanzia, dall'adolescenza e tutta la vita. Ecco perché ha cambiato la mia vita, perché non mi sono più vista come mi vedevano i miei fratelli, mia madre, i parenti e tutto, ma mi sono vista come mi vedeva la gente sul serio, la gente che non mi conosceva. Ecco, l'analisi però riapre anche vecchie ferite, spesso alla ricerca delle ragioni del nostro comportamento invece dell'oggi. È stato faticoso rivivere quell'esperienza anche a distanza di 30 anni, cioè in quel momento dover scavare nel passato e trovare certe ragioni di comportamento e poi mettersi a scrivere e quindi rivivere quei momenti. Cioè queste cicatrici erano già chiuse e si sono riaperte? Allora devo fare un'altra affermazione. La nostra vita senza cicatrici, senza ferite, non sarebbe una vita, sarebbe una passività totale. Noi abbiamo bisogno di cicatrici per capire cos'è il senso della vita. Questo è stato naturalmente in quel periodo assai duro, perché non soltanto il lato positivo che è venuto dopo, inconsciamente, non ero affatto cosciente, ma io so che dopo, e che sono passati 35 anni, ho fatto un salto nella mia vita. Allora no, allora ho sofferto moltissimo. Adesso, rileggendo queste note che avevo scritto allora, non sono stata affatto ferita, ho pensato, oh, mi hai fatto di strada, eh? Ecco, chiediamo ancora a Lorenzo Bellini se ci legge una pagina del libro, la scena in cui entrano nuovi pazienti, tra virgolette, del dottor Marx, si chiama il famoso psichiatra. In mezzo a quella confusione di voci, osservazioni ironiche, risatine e commenti vari, qualcuno bussò la porta dietro le spalle del manager, che fu costretto ad alzarsi. Costanza non poté trattenersi dal motteggiare con lui scherzosamente. Si era seduto dietro la porta per poter scappare alla prima occasione, come del resto avrebbe fatto lei stessa. Lui la guardò sbalordito. Era chiaro che non aveva speso un solo pensiero sulla propria scelta di sedere. Nel frattempo entrarono due persone, un uomo e una donna. L'uomo alto, ben piantato, di una cinquantina d'anni, tutto in grigio, comprese camicia e cravatta, una bella testa, anch'essa grigia, un viso dagli occhi spenti. Sembrava portare in giro controvoglia l'alta statura, il corpo e forse se stesso. Si sedette subito di fronte a Costanza, non senza aver accennato brevemente un saluto intorno. Dietro a lui si mostrò in tutta la sua bellezza una donna altissima e molto magra. Un viso scavato, sofferente, quasi ascetico, mezzo nascosto da una massa di capelli rosso tiziano, stupendi. Un'immagine proveniente direttamente da un quadro rinascimentale. Gli occhi verdi, assai espressivi, non erano spenti come quelli del suo compagno, ma velati da una profonda malinconia. Le gambe lunghissime erano infilate in pantaloni di velluto che ne modellavano le forme. Sembrava che finissero lì dove cominciavano gli stivali, lunghi fino al ginocchio. Su quello stravagante insieme portava un pullover rosa e azzurro, molto ampio, elegantemente sciatto. E questa era sempre. Si sedette accanto all'uomo in grigio, suo compagno di viaggio. Parevano amici. senza neanche darle il tempo di prendere il fiato, la ragazza rotondetta con calma e senza neanche salutarla ruppe il silenzio nato da quella nuova interruzione. Pensavamo che non saresti venuta. Il dottor Marz ha detto che eri malata, ma il suo tono non era convincente. L'ultima volta abbiamo concluso tutti che tu non avessi più nessuna voglia di venire. Se è così, potresti dircelo chiaramente e magari spiegarmi i motivi. Accenta, reagì subito, nervosa, insicura, agitando davanti a sé le mani dalle dita lunghissime. Era sua intenzione venire, ma si era malata. Si volse verso l'uomo in grigio chiedendogli aiuto, che confermasse la sua malattia. E lui, piuttosto infastidito, scosse la testa. Chiaramente non gli piaceva affatto essere chiamato in causa. Sì, sì, ho parlato di te. Ho detto che eri malata, ma dato il genere di malattia assai complicato, non ho potuto dare spiegazioni dettagliate. Per questo sono nati malintesi. Prima di pubblicare tante perplessità, no? E poi invece molti riscontri positivi. Perché il libro è già uscito da alcuni mesi, quindi hai avuto un po' di feedback. Sì. Dunque, non soltanto positivi, questo lo dicono, non è niente da nascondere. Allora, la prima persona che ha letto questo libro è la mia amica per eccellenza, che conosco dal 1961. Quindi una persona che ha seguito tutta la mia vita, che conosce tutto di me, eccetera. Letto il libro, mi telefona e mi dice: mai avrei pensato che tu potessi scrivere queste cose. Una bella mazzata in testa. Dico: perché? Cosa ti ha disturbato? Dice: ci sono delle cose molto scabrose, perché in questo libro, fra l'altro, lui non lo ha detto perché è una persona molto discreta, si tratta moltissimo di sessualità, cioè la sessualità al femminile e al maschile. Questo tema, che in realtà occupa la nostra esistenza, lo vogliamo o no, ha disturbato enormemente la mia amica. Altra invece reazione di un uomo che mi ha telefonato, un altro che mi ha scritto, ha detto: ho preso questo libro, l'ho letto tutto d'un fiato, mi è piaciuto tantissimo. Ah, dico, guarda un po' la reazione di un uomo e la reazione di una donna. Cioè la donna ha molte difficoltà a identificarsi con certi lati della propria personalità. Prego. Allora restiamo sull'argomento donne, anche perché sono in netta maggioranza anche tra il pubblico. E a pagina 120 scrivi, qui lo dice Costanza, credo, giusto? E lo so, le donne hanno una capacità introspettiva più sviluppata degli uomini. Tu pensi che con la sola forza della volontà si possa cambiare? Significa che sono più adatte alla psicoterapia? Dunque, io vorrei specificare una volta una cosa che mi sta molto a cuore. Il senso della psicoterapia, che cosa è? È il bisogno di ogni essere umano di parlare e di essere soprattutto ascoltato. Perché si parla, sì, ma l'interlocutore per la maggior parte dei casi non ascolta. Voglio citare uno psichiatra in Italia conosciutissimo, che a parte le dichiarazioni che ha fatto, che mi hanno veramente sono andata su tutte le furie, ha detto un'altra frase che vorrei ripetere, e cioè lui ha detto precisamente: quando un paziente viene da me e mi dice, adesso le racconterò qualcosa che non ho raccontato mai a nessuno, io rispondo a questo paziente e se lo tenga per sé. Ora, se uno psichiatra si comporta in questo modo, pensiamo un po' come si comportano gli altri. Se io vado da uno psichiatra, uno psicologo, quello che si vuole, e non posso neanche dire quello che non ho mai detto a nessuno, allora me lo tengo dentro come un nodo che continuerà a crescere e diventare sempre più grosso. mentre invece la necessità di ogni essere umano è quello di liberarsi come? Attraverso la voce, parlando, oppure cantando, che è ancora meglio, però parlando questo lo possono fare tutti ed è necessario. Addirittura siamo disposti a pagare, soprattutto in Italia, in Germania è gratis la psicanalisi. Finito? Un po' di musica. No, dico, e questa è qui una cosa fondamentale, questo è il senso della psicanalisi, quello di poter finalmente parlare ed essere ascoltati. Ecco perché quello psichiatra ha sbagliato mestiere, scusate. Diamo un po' di spazio anche al maschietto. Uno dei personaggi cardine proprio di questa storia è la figura di un manager che era effettivamente, come racconti anche nel libro, un manager tra i più affermati, tra i manager di maggior successo in Germania, giusto? Sì, fra l'altro nel 1984 questo signore aveva 12.000 impiegati, dipendenti, e adesso è morto qualche anno fa e ne ha 120.000. Devo dire, è al settimo posto fra tutte le persone più ricche della Germania. La cosa più affascinante in quest'uomo, che ho conosciuto molto molto bene, avevo un ottimo rapporto con lui, è che era un uomo estremamente insicuro, con grandissimi problemi soprattutto con le donne, ecco perché viene fuori la questione della sessualità al maschile e la sessualità al femminile. E lui praticamente è andato a fare questo gruppo di terapia per cercare di capire come funzionano le donne. Sembra molto strano, ma è vero. No, non c'è riuscito di sicuro. Questa è la risposta dell'uomo. A proposito di vecchie ferite, invece, vorrei un'ultima lettura della prima parte del libro, che è quella più importante, almeno dal punto di vista dello spazio. E la lettura a pagina 27, Lorenzo, grazie. Improvvisamente la porta si aprì ed entrò un uomo. Senza il minimo cenno di saluto, neanche all'indirizzo del telefono Max, si sedette accanto al manager, l'unico posto rimasto vuoto, e ascoltò con grande attenzione il battibecco. Gettò uno sguardo curioso sulla donna e poi sull'uomo, con una chiara domanda negli occhi. Sono i due nuovi? Intervenne infine in difesa del manager con estrema pacatezza, girando con ostentazione la schiena a Costanza. Alto, magro, una quarantina di anni, aveva subito allungato le gambe davanti a sé per dimostrare di trovarsi a suo agio. Le mani appoggiate sulle ginocchia erano lunghe, rossicce, coperte da una leggera peluria, anch'essa rossiccia, le unghie piatte, biancastre. Mani d'assassino, pensò subito Costanza paralizzata, ma non riusciva a staccare gli occhi da quelle mani. Era in qualche modo affascinata, quasi vi vedesse un coltello sporco di sangue umano. Due giorni dopo, sola con le donne, disse che non poteva pensare a quelle mani senza sentire un brivido di ripugnanza. Senta e la ragazza rotondetta subito confermarono la sua impressione e anzi aggiunsero che lo conoscevano ormai da un anno e mezzo e mai avrebbe voluto restare solo con lui. Costanza proseguì dicendo che non poteva immaginare quelle mani in un gesto di tenerezza. Nascondeva forse con quella dichiarazione l'inconscio desiderio di conoscere proprio da quelle mani nuove sconosciute carezze. Durante i tre giorni trascorsi insieme, tuttavia, non riuscì a guardare quelle mani senza sentire un vuoto allo stomaco, un rimescolio di emozioni forse sopite da tempo o addirittura mai conosciute. E il manager Ora che il nuovo venuto prendeva le sue parti, si sentì sostenuto. La moglie lo costringeva a lavorare, non gli dava pace, era setata di potere, lo tiranneggiava giorno e notte, anche di notte, non volendo mai concedersi a lui. Costanza andò avanti sempre, tagliente, vendicativa. Dietro ogni potere si nasconde un essere non accettato, non amato, frustrato emotivamente fin dall'infanzia, molto spesso maltrattato fisicamente, una sorta di rivincita sul mondo, su chi non ha riconosciuto le sue qualità, su chi non lo ha rispettato quando non poteva difendersi. Una donna setata di potere è anche lei frustrata e compresa, sola, priva di affetti. È chiaro che lei delude sua moglie. Fu subito interrotto dall'uomo, dalle mani rossicce, che si voltò di scatto e duramente la zittì. La smetta di erigersi a giudice, considerando le tante sciocchezze che dice, credo abbia parlato fin troppo. E tornò a rivolgersi al manager. Costanza, fulminata, offesa, si sentì come una bambina piccola. Rivide lo sguardo severo del padre posarsi su di lei, sufficiente ad annientarla, distruggerla. Un ferro arroventato riapriva una vecchia ferita. Un nodo le serrò la gola. Pietrificata non aprì più bocca fino alla fine della seduta, con il solo desiderio di andare via, sparire, forse morire sul colpo. Direi di passare al secondo racconto, che non è finito lì per caso, no? Perché anche qui uno dei protagonisti, anche se è il protagonista defunto, è un, in qualche modo un padre assente, perché Erich Müller era, come dice nel testo, un residuo della guerra. E la trama è questa, di questo breve racconto, ma pieno di denso di sviluppo narrativo. Una donna italiana compra casa a Monaco, ereditando però, con un cane incorporato praticamente, eredita praticamente un cane e tanti misteri che le cambieranno un po' la vita, anzi un po' tanto. Perché il protagonista, appunto, cioè diciamo che l'ex proprietario di questa casa, di questo appartamento che interessa alla donna che va a vivere a Monaco, giusto? È a Monaco? Sì. Questo ex proprietario, cioè il cane sopravvive al proprietario, per cui come clausola per l'acquisto viene posto l'obbligo di badare anche al cane del nuovo acquirente. Io direi di leggere subito una pagina che ci racconta il primo approccio di questa signora con questo misterioso appartamento. Sono stata avvertita che sarebbe venuta una straniera, un'italiana. Del resto si sente subito che lei è straniera anche se parla tedesco. Ma non è questo il nome che mi è stato annunciato. E mi squadra con una certa diffidenza. Io devo subito scusarmi, dire il mio vero cognome e accennare brevemente che l'altro è il cognome del mio ex marito. Non l'avessi mai fatto. Adesso mi guarda sempre più sospettosa. È chiaro che non le sono piaciuta. Ma la colpa è mia, chissà cosa mi è saltato in testa. Ho rovinato il primo approccio. La prossima volta che vengo le porto dei fiori, forse riuscirò a rimettere le cose a posto. La vecchietta, senza pensarci due volte, tira fuori dalla tasca del grembiule un cellulare e senza degnarmi di uno sguardo si mette a telefonare mentre si avvia verso casa. Apre la porta e un cane di mezza taglia, di razza per me indefinita, esce, si stiracchia e pigramente mi si avvicina un poco curioso. Mi annusa e quasi starnutisce. Neanche a lui devo essere piaciuta. La vecchietta torna. Berti ha confermato. Non ha capito perché lei si sia presentata sotto falso nome. Questo è il cane di Eric. È rimasto qui e fa parte dell'inventario della casa. Se decide di prenderla, deve tenere anche il cane. Io me ne occupo ormai da quando Eric è scomparso e alla mia età non lo posso portare a spasso. Devo perfino pagare una Hundesitter ogni giorno, oltre alle scatolette di carne. Se prende la casa, le porto il conto di questi ultimi mesi. Resto sconcertata. Ma certo non mancano le sorprese. Un cane. Devo tenere anche il cane e pagare per il mantenimento dei mesi passati. Ma in che mondo viviamo? Rispondo un po' piccata che io lavoro tutto il giorno e non posso portare il cane a spasso. Stranamente sento che lui capisce che stiamo parlando del suo futuro. Mi guarda infatti con certi occhi pieni di attesa, direi quasi con preoccupazione. Sembra avere superato di colpo la stanchezza. Ora mi osserva con più attenzione. Sicuramente stava dormendo quando sono arrivata e non ha capito subito che la mia persona ha in qualche modo a che fare con lui e con il suo destino. Sa, io vivo della mia piccola pensione e non posso permettermi di mantenere un cane. E Bertie non lo vuole, come non vuole niente di suo fratello. A momenti rifiutava anche la casa, quella matta. Per fortuna è intervenuto l'avvocato. Meglio se qui abita qualcuno. Non posso continuare a pagare il riscaldamento per tutta la casa. Magari mi vuole costringere anche a pagare il riscaldamento per tutti i mesi in cui la casa era vuota, penso. E non so cosa ancora dovrò accollarmi oltre al cane. Lui intanto non si stacca da noi. Sembra ascoltare e riflettere. Può riflettere un cane? Certo. Se guardo i suoi occhi sono costretta a pensare che sta facendo i conti col suo futuro. Povera bestia, mi fa pure pena. Ma come faccio a mantenere un cane? Io non ne ho mai avuti. E non so neanche come ci si comporta con un cane. Un gatto, magari, sarebbe più facile. Ricordo il gatto di mia nonna, ignorato da tutti. Ma lui se ne infischiava. Per cui ammetto di non avere alcuna esperienza nemmeno con i gatti. Basta, sono confusa. E ora voglio vedere finalmente la casa in questione. Ecco, anche questa è una storia vera, come quasi tutte, anzi tutte. C'è sempre un fondo di realtà vissuta. Soprattutto di realtà che Ada Zappelli ascolta, perché probabilmente è retaggio anche di quell'esperienza che aveva fatto tanti anni fa. La capacità dell'ascolto non ne manca, visto che riesce a cogliere sempre da un'amica, da una conoscente, da un'allieva. Sono una ladra di pensieri. E poi restituire appunto sotto forma di... Che cos'è che l'ha colpita in questa storia e che l'ha convinta che avrebbe meritato una pubblicazione? Un racconto. Dunque, la storia è facilissima. Una cugina di mio marito ha comprato un appartamento scatola chiusa, cioè con tutto quello che c'era dentro, e per questo motivo ha avuto anche un buon prezzo, perché l'erede di questa casa, che qui è la Berti, non vuole avere niente a che fare con quello che c'è nella casa. Io di mio ho aggiunto un cane. Mi sono permessa di aggiungere un cane perché io quasi in tutti i miei racconti o romanzi ci metto sempre un animale che fa parte della nostra esistenza. Quindi questo cane è diventato un personaggio molto importante nel racconto e ne sono molto felice e fiera, devo dire. Ecco, questa è la storia. E facciamo un accenno a questo protagonista defunto, cioè anche lui è un padre assente, come mi piace definirlo, come un simbolo, cioè una vittima colpevole della guerra, no? Non colpevole, poveretto, no. Lui no. Dammi questo posto. No, la questione è questa. Uno dei capitoli più veramente duri e tristi della storia della Germania del dopoguerra fu che furono trovati ben 300.000 bambini dei quali non si sapeva da dove venissero, il nome dei genitori, i loro nomi, niente. 300.000, un numero enorme. Questi bambini sono stati portati tutti in diversi orfanotrofi. Allora, questo è un tema che mi ha... Io forse è meglio che lo dica chiaro e tondo. Adoro i bambini e gli animali, il resto ce lo lasciamo perdere. Allora, io ci ho messo un cane e un bambino abbandonato, che non sapeva lui stesso, cioè dopo un bombardamento questo bambino è rimasto in mezzo alla strada e nessuno lo ha riconosciuto. Evidentemente i genitori erano morti o erano stati uccisi, diciamo quello che volete. Ad ogni modo, questo è Eric ed è stato preso da una donna, perché ci sono ancora, per fortuna, in tutte le storie tremende ci sono anche dei gesti di umanità. Questa donna prese questo bambino, se lo portò a casa e cercò i genitori. I genitori non sono mai venuti, finché poi finì con l'adottarlo. Questa è la storia che ho inventato io, ma l'origine è molto diversa, è molto difficile stabilire come nasce un racconto, scusate. Il povero Eric mi perdonerà, sì. Non ho studiato abbastanza. E chiederei un'ultima lettura, sì, questo qui l'altro, dove si parla appunto dell'inizio dell'esplorazione di questa misteriosa casa e l'impatto con i lavori che richiede. Ho cominciato dalla cucina e dal bagno e ho subito capito che bisognava rifare tutto. Dopo una serie di peripezie, sempre con l'aiuto di Doris, sono riuscita a trovare una piccola impresa che per un prezzo non spropositato ha buttato giù prima il bagno e subito dopo la cucina. Mentre gli operai lavoravano non proprio alacremente, distruggendo quanto era stato costruito circa 40 anni fa, ho cominciato a guardarmi intorno, sempre con Barry fra i piedi. A proposito, ho dovuto risolvere anche questo problema, ma la povera bestia mi fa tanta pena, al punto che ogni pomeriggio corro a casa per portare un po' all'Englisher Garden. Per fortuna si tratta soltanto di attraversare la strada. Lui è piuttosto timido, credo sia anche un po' vecchio, o forse è soltanto triste. Ad ogni modo non corre come gli altri cani, non attacca briga con nessuno, anzi se ne sta alla larga ed è imbarazzato se un cane si avvicina per annusarlo. Secondo me è molto, troppo ragionevole. A volte ho persino pensato che fosse un po' vigliacco, ma forse è una questione legata al suo carattere o all'età. Magari è stato educato così. Non so che pensare, anche se in fondo posso considerarlo un cane incomodo, che non dà fastidio, non litiga con nessuno. Non mi tocca mai di dover intervenire per separarlo in una zuffa, come vedo spesso fare con altri cani. Con qualsiasi tempo prendo la bicicletta che ho trovato da qualche parte in casa e cerco di farlo correre. Lui mi guarda interrogativo, quasi gli chiedessi chissà quale stravaganza, ma poi mi segue assai malvolentieri, devo dire, senza affrettarsi. Ho pensato di portarlo dal veterinario per vedere se c'è qualcosa che non va. Adesso che osservo gli altri cani, questo comportamento mi sembra molto strano. Credo sia depresso. Gli manca il suo padrone, è chiaro. La mia vicina di casa, che fra l'altro si chiama Frau Linz, ha detto che Barry è sempre stato così. Mangia e dorme quasi tutto il giorno. Sembra non chiedere altro alla vita. Ad ogni modo, se sono in casa, mi sta sempre dietro e abbastanza spesso mi sento osservata. Certo, apro cassetti che non sono miei, scartabello carte, documenti, li leggo qua e là, e lui sa che è tutta roba del suo padrone. Nei suoi occhi vedo una certa preoccupazione. Tu, che c'entri col mio padrone? Già, il suo padrone, Eric Müller. Chi era costui? Bravo! Come l'impatto con una casa possa anche cambiare la vita di una persona, però su questo ovviamente non svegliamo niente, perché sennò non comprano più il libro. E io lascerei, secondo me, il tempo fisiologico di una presentazione, un'oretta, poi vi lascerei qualche minuto di tempo per pensare a una domanda, se ne avete, ma perché magari qualcuno ha già letto il libro e ha qualche curiosità da soddisfare, però vi lascio il tempo appunto di formularmi la domanda. E quindi intanto ne faccio una io alla, siccome ha anche un grande futuro oltre che un grande passato, ad Zappare Zucker. Quali altri manoscritti bollono nella famosa pentola, nei cassetti? Perché so che già l'editore è al lavoro, dov'è? Poveretto. Sarà già al lavoro. È nascosta. Bisogna dare molto lavoro agli uomini, così non si annoiano. Te lo faccio dire al microfono. No, qualche cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi da Zappare Zucker. Dunque, dall'agosto di un anno e mezzo fa, improvvisamente mi sono messa in testa di mettere su un libro senza scriverlo io. Curva. Veramente, ho pensato, ma guarda, io ho avuto, sono 40 anni che insegno canto, che fine hanno fatto tutti questi allievi? Dove sono? E ho cominciato a cercarli. Ne ho trovati 28. Gli ho scritto a tutti 28, ho detto, io ho intenzione di mettere su qualcosa con voi, siete d'accordo? Immediatamente ricevo una email dietro l'altro, sì! Punto. Non sapevano neanche di che cosa si trattasse. Dopodiché è scoppiata la bomba. Cioè ho scritto 18 o 16, non mi ricordo più, domande. Dico, rispondete a queste domande? La cosa è diventata molto più drammatica. Insomma, è un anno e mezzo che più o meno ho messo insieme adesso le risposte di tutti questi, alcune molto interessanti, molto belle, altre con molte reticenze, tre si sono rifiutate di rispondere e poi ci hanno ripensato e hanno risposto. Insomma, è stata un'avventura veramente eccezionale per me, perché ho scoperto l'altro lato della medaglia, cioè io vedo questi allievi sempre davanti a me, ma quello che sta dietro di loro non lo sapevo. E ho fatto veramente delle scoperte molto interessanti. Questo libro ha un titolo che uscirà in due lingue, perché i miei allievi sono bilingue, cioè non parlano due lingue, cioè quelli di cui parlano tutte le due lingue, ma la maggior parte dei miei allievi sono chiaramente in Germania. Si chiama Sänger und Singer der Menschen. Non so come si potrebbe tradurre in italiano Singer der Menschen, cioè esseri che cantano, perché non è detto che uno che canta sia un cantante. Questa è stata per esempio una grandissima scoperta, eccetera. Questo sarà il prossimo, spero, se il mio editore me lo permetterà, altrimenti non gli faccio più una cena. Il secondo invece, che è veramente scritto e l'ho scritto della mia vita, sarà Un'infanzia quasi felice. Sono 6 racconti. Non posso proseguire. Va bene, allora lasciare il microfono a voi, se certo. Oppure se vi basta anche la voce naturale. C'è qualche domanda? Volentieri. Non osa nessuno, eh? E gli è spaventato? Esponetevi. Io mi sono esposta qui, esponetevi anche voi. Non c'è niente... Brava. Perché i padri assenti? Dunque, questi padri assenti, come lui ha spiegato precedentemente, sono i padri di quella generazione particolare in cui i genitori erano a fare la guerra, oppure erano in prigionia, oppure sono morti. E quelli che sono tornati dalla prigionia erano ugualmente assenti, perché erano troppo occupati a risolvere i loro problemi personali. Quindi questa generazione con la quale ho avuto a che fare io erano quelli che non hanno avuto un padre vero, come in realtà ha bisogno ogni essere umano. Ecco perché erano assenti, perché anche se erano lì in carne e ossa, diciamo, erano però assenti. E voglio aggiungere che la maggior parte dei padri sono assenti anche a oggi. Adesso mi uccide. Sì, anche perché siamo in pochi, quindi. siamo e poi c'è la minoranza. C'è un'altra domanda? Ci sono altre domande? Da noi non si usa tanto rivolgersi, almeno perché so io delle mie amicizie, non si va tanto dal psicologo, dallo psichiatra, non è una cosa che si fa, almeno con tante gente che conosco. Si va di più in Germania? Oh, questo mi sorprende molto, anzi. Non è vero, tutti uno. Non è vero. Probabilmente tu sei una delle poche persone che non hanno mai pensato a una cosa del genere. Ma la maggior parte della gente, sì, credo che anche in Italia. Io ricordo che il primo istituto di psicanalisi in Italia nacque subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché durante il fascismo era proibita la psicanalisi, chiaramente, no? E quindi, e questo io lo so perché a casa mia giravano degli studenti di medicina che si stavano specializzando in psicanalisi ed era una cosa eccezionale. Cioè, in realtà, ma siamo nel 45, 46, 47, sono passati tanti anni. Credo che in Italia, una delle cose che devo dire, in Italia la psicanalisi non è ammessa dalla cassa malattia o cassa malati o come si chiama, mentre in Germania è gratuita, come tutte le altre, come tutti gli altri medici hanno anche loro. Io ho una carissima amica, psicologa, psicanalista, cioè anzi due o tre adesso mi viene in mente. E non è vero, io trovo che sia un ottimo sistema di comunicazione, forse perché gli italiani comunicano sempre molto più facilmente dei tedeschi, dici? Ma ho dei grossi dubbi. Ma io volevo dire una cosa. Dimmi. Stasera abbiamo la prima di un pezzo di Pirandello, quindi sì. Proprio direi che il primo racconto rispecchia un po' quello che poteva essere uno di sono 100.000 per domandare, certo, chi certo, sono io, certo, no? Quindi la necessità di andare, non sono mai andata io, ma farsi psicanalizzare oppure un lavoro di gruppo così, certamente noi abbiamo un'immagine di noi stessi, no? Che è quella, certo, che noi ci vediamo allo specchio. Proiettata. Poi abbiamo un'altra immagine che è quella di chi ci ama, di chi c'è qui, di chi c'è più vicino, quindi la famiglia chiaramente. Chiaro. E poi c'è quella di tutto il mondo che ci circonda, quindi tante volte ci si pone il problema e dice ma io chi sono veramente, no? Soprattutto quando non capiamo certi atteggiamenti da persone non così vicine a noi forse, no? Esatto, esatto. Quindi, tra l'altro la necessità di scoprire chi si è veramente, poi, cioè io mi chiedo, il lavoro che tu hai fatto in questo gruppo che ti ha aiutato molto, ti ha dato poi la risposta di chi sei tu veramente? Come no? Questa è la cosa fondamentale. Cioè ho capito prima di tutto come io, come dire, la reazione che provoco negli altri. È una cosa molto importante, perché io ero una donna molto timida. Ah, quindi e chi ci crede adesso a vedermi, vero? No, no. Ma quando mi hai conosciuto 10 anni fa, questa è una storia che risale a 35 anni fa, quindi è chiaro che è stato un processo molto lungo, però da una persona estremamente riservata e timida quale ero io, e adesso mi sto qua a chiacchierare come se fosse acqua fresca, ce n'è voluto. E questo è veramente, questo è quello che ho raccontato al dottor Max quando l'ho rivisto, e lui era esterrefatto, ed era anche molto felice. Ho detto, il suo gruppo di terapia mi ha insegnato delle cose molto importanti, e cioè che io sono capace di comunicare verbalmente, non soltanto con la voce cantando, ma verbalmente con molte persone. E questo qui è fondamentale, per me è stato fondamentale, ma anche per tutte le persone che sono venute lì, perché poi ho incontrato, questo non l'ho detto, per esempio Senta, che ha tutto un altro nome, e altre persone per chiedere il permesso di pubblicare i loro problemi, le loro storie. E anche per loro è stato un passaggio molto importante nella loro vicenda della vita, è chiaro. Cioè, se un gruppo di terapia è fatto molto bene, devo dire ancora, forse non è stato detto, che tutti quelli che facevano questa terapia erano medici. Erano tutti medici. Perché un medico in Germania, non so com'è in Italia, non oso dirlo, ha il dovere ogni 2-3 anni di fare una terapia di gruppo e poi ha un certificato per poter fare la sua messa. Quindi erano tutti professionisti. Questo è molto importante, una cosa, un'analisi di se stesso. Lei ha una domanda da fare? No, stavo osservando il brusio che c'era dietro questa affermazione dei medici, ma a noi piacerebbe che anche in Italia... Glielo facciamo sapere. No, ma è un obbligo, è veramente un obbligo. E quindi avevano bisogno anche di questo certificato che loro avevano fatto, questo gruppo di terapia. E io e il manager eravamo gli unici praticamente... persone completamente normali. Sì, diciamo, veramente, ma io vorrei veramente dirlo, eravamo le uniche persone normali in mezzo a questo mondo di pazzi veramente scatenati. E all'interno della famiglia poi questo cambiamento che c'è sì, è stato molto importante per me. Certo, molto, ma anche per gli altri, perché certamente, perché a un certo punto, per esempio, io che ho un fratello che mi ha sempre dominato, allora io ho detto adesso abbiamo finito, abbiamo concluso, adesso basta con questa storia che tu ti senti superiore a me perché hai 5 anni più di me, ma dove? E poi sei anche uomo. Sì, caramente, no, ma ti giuro, ma è stata veramente un'esperienza molto importante. Ecco perché dico che è molto salutare fare una terapia di gruppo, però bisogna trovare un ottimo medico, e lui era veramente, lo è, poveretto, credo che viva ancora, era veramente, lui non parlava mai, questo è molto importante, lui lasciava sempre... C'era una dinamica che era nata e lui stava lì e interveniva soltanto quando scoppiavano veramente delle risse, ma quando si parlava così lui mai dava un'opinione, niente, era bravissimo. C'è qualcun altro? Oppure ce ne andiamo a casa? Potremmo avere pietà per la direttrice della biblioteca che è qui da stamattina. Dalle 8. Perché oggi ha avuto 2 ore di diretta radio e ieri di porte aperte, giusto? Sono giornate intense. Ecco. E anche dei suoi collaboratori, ovviamente. E quindi la ringraziamo ancora per l'ospitalità, ringraziamo voi per aver scelto la nostra autrice e vi diamo appuntamento al prossimo libro. Soprattutto vi ringrazio di aver permesso a me di provocarvi. Cosa che faccio sempre.